30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. L'Italia è tra i paesi industrializzati con la maggiore disparità dei redditi, è quanto emerge da uno studio dell'OCSE. La penisola figura al quinto posto tra i 17 paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che hanno segnato un ampliamento del gap dei redditi tra l'85 e il 2009, dopo Messico, Stati Uniti, Israele e Regno Unito, e in assoluto è al sesto posto per il divario tra i 22 paesi presi in considerazione dall'indagine, inclusi i 5 che lo hanno ridotto. Ancora buonasera da Gigi Donelli, bentornati all'appuntamento con 30 minuti in cronaca. Dunque, il dato ve lo rileggo per rifletterci su ancora un momento. La penisola, l'Italia dunque figura al quinto posto tra i 17 paesi dell'OCSE che hanno segnato un ampliamento del gap, del differenziale dei redditi tra l'85 e il 2009. Insomma, cresce di fatto la diseguaglianza, e questo in una classifica che sopra di noi, tra virgolette, peggio di noi, vede solamente il Messico, gli Stati Uniti, Israele e il Regno Unito. Ecco, questa misura, questo calcolo viene fatto basandosi sul cosiddetto coefficiente di Gini, appunto una misura, poi ne torneremo a parlare in maniera più approfondita, che determina la distribuzione di fatto di ogni cosa economicamente interessante, e che in questo nostro caso misura l'ineguaglianza dei redditi. Per l'Italia l'indicatore corrente alla fine del decennio segna 0,35. Entreremo nei dettagli. Intanto saluto il nostro ospite. Questa sera è con noi il professor Marco Leonardi, professore di economia politica al Dipartimento di Economia di Scienze Politiche a Milano. Collabora, scrive per lavoce.info. Buonasera, professore. Buonasera. Allora, prima considerazione su questo dato. Cosa le suscita? Suscita il fatto che è una conferma di un trend che gli studiosi già conoscono, è un trend all'aumento delle disuguaglianze in generale, perché ci sono diverse forze che spingono in alto la disuguaglianza, e se gli stati nazionali, intendo gli stati nazionali, non controbilanciano queste forze con delle adeguate policy di redistribuzione, la disuguaglianza aumenta. Infatti in tutti i paesi, tranne pochi che lei ha citato all'inizio, la disuguaglianza è aumentata. Parliamo un momento proprio della misurazione. Ho citato il coefficiente di Gini, che peraltro leggo e apprendo, prende il nome da uno statistico economista italiano, classe 1884, sociologo, nominato da Benito Mussolini, pensate, direttore dell'Istat nel 1926, quindi siamo in pieno nella storia italiana. Allora, il coefficiente di Gini, che per lui era l'indice della concentrazione di un bene, misura in questo caso appunto l'ineguaglianza. Insomma, quando parliamo di reddito, di fatto misura quanto la torta del benessere fruibile da ciascuno di noi sia tagliata in fette più o meno simili, o invece in poche grandi fette e tante fettine che a volte diventano addirittura trasparenti. Si tratta di una scala che di fatto va dallo 0 all'1, quindi si misura in questo caso in decimali, e che va dagli estremi, insomma, dalla giustizia assoluta all'ingiustizia assoluta. Ovviamente la realtà sta nel mezzo. Di fatto però c'è un dato: la diseguaglianza in Italia, questo fattore, è aumentato del 13% dall'85 al 2009. È una cifra importante, sì, ma ha spiegato già bene, molto bene lei, in parole comuni, povere, il concetto dell'indice di Gini. È ovvio che gli statistici utilizzano tuttora diverse misure della disuguaglianza. Questa è la più famosa. Un'altra cosa da sottolineare è che i confronti tra paesi, cioè se l'Italia è più o meno diseguale della Germania e Francia, sono sempre difficili, perché ogni paese ha la sua storia e le sue istituzioni, che ovviamente influenzano la distribuzione del reddito, che è una delle cose più importanti che un economista vuole sapere di un paese, ovviamente. Bene, i confronti tra paesi sono difficili, non impossibili, perché oggi per esempio si fa delle statistiche che sono comparabili, con l'intento di renderle comparabili tra paesi, però appunto i confronti tra livelli di disuguaglianza tra paesi sono difficili, quelli di tassi di crescita all'interno di un paese sono molto più facili. Cioè è chiaro che si può calcolare abbastanza facilmente se la società italiana è più o meno diseguale di 20 anni fa, e appunto senza tante sorprese, perché chi studia queste cose non è molto sorpreso. sorpreso, si scopre che è il 13% più diseguale. Perché non è sorpreso, professore? Perché voglio dire, perché lo guardiamo intorno a noi, perché sentiamo parlare delle difficoltà economiche, eccetera, eccetera, oppure perché ci sono delle ragioni più profonde e scientifiche? Delle ragioni profonde. Infatti non è un caso che la disuguaglianza aumenti in tutti i paesi, cioè non è un trucco statistico. I fattori che aumentano la disuguaglianza, che forse è quello che è più utile capire che cosa succede, sono i fattori che ci circondano da 20 anni e che probabilmente ci circonderanno per altri 20 anni. Sono semplicemente il fatto che la tecnologia va a vantaggio di chi ha studiato e chi è preparato, e quindi di relativamente pochi e non di tutti. I mercati internazionali spesso hanno dei vantaggi soprattutto per chi già è affermato nella società e ha dei redditi decenti. Le istituzioni del mercato del lavoro, che sono quelle che tengono sotto controllo la disuguaglianza, sono andate erodendosi in quasi tutti i paesi, perché abbiamo visto che non, per esempio i salari minimi non sono più salari minimi di un tempo. Adesso questo ha un sapore un po' di nostalgia, ma non è così, nel senso che le istituzioni del mercato del lavoro si sono obiettivamente indeboliti. Se si pensa a che cosa sono i contratti a termine, i contratti precari oggi in Italia, è ovvio che non c'è più un volenti o nolenti, non c'è più un lavoro a tempo indefinito per tutti, e quindi questa è un'istituzione che è venuta sgretolandosi e che ovviamente naturalmente porta con sé maggiori diseguaglianze. Tutti questi fattori insieme, che sono fattori anche comuni a tutti i paesi, per non dire anche dei fattori di composizione della società, cioè del fatto che le famiglie spesso sono famiglie di single, e quindi questo porta a maggiore disuguaglianza. Insomma, la rete, il cambiamento sociale, certo, l'impressione complessiva che se ne deduce è che in una situazione di più mercato, meno Stato, questo benessere, che comunque è cresciuto regolarmente negli ultimi decenni, anche se ora appunto c'è un grosso punto di domanda su questo, non abbia portato a una distribuzione equa, anzi che ci sia una tendenza in direzione opposta. È così, e la riflessione che bisogna fare è: ma questo è importante o non è importante? Cioè bisogna essere anche abbastanza pragmatici, a mio parere, nel senso che uno può anche tollerare che le società siano diseguali e magari anche siano sempre un pochino di più diseguali. Quando bisogna preoccuparsi? Questo è il punto di domanda. Per esempio, negli Stati Uniti c'è tutta una corrente di pensiero molto importante, non marginale, che ritiene che gli aumenti della disuguaglianza negli Stati Uniti siano stati la vera causa della crisi finanziaria. Gli aumenti della disuguaglianza? Certo. Perché cosa succede? Quando è che ci si deve preoccupare? Quando la diseguaglianza diventa così evidente, così grave, per cui chi è più povero si indebita, e si indebita in maniera importante e seria per far fronte ai consumi che non può, a cui non può far fronte con i suoi redditi che sono troppo bassi. Quando si arriva a questo punto, negli Stati Uniti si è arrivati a questo punto, è chiaro che tutto il sistema si va in crisi. Ecco, lei di fatto ha in qualche modo sintetizzato una parte di quella che è stata la crisi del 2008, per carità, un discorso enorme. L'altra parte è appunto quella della regolamentazione o non regolamentazione dei mercati e di come le banche in questo caso e le finanziarie hanno gestito le crisi. Quindi dice, comunque in sintesi, un tasso di diseguaglianza non è di per sé negativo. Ecco, ma qual è il vantaggio allora della diseguaglianza? Cos'è, uno stimolo? Beh, guardi, cioè è sempre stato uno stimolo alla diseguaglianza, cioè la diseguaglianza è soltanto l'effetto del fatto che c'è qualcuno che ha delle opportunità maggiori e magari le utilizza, o qualcun altro che questo non ci riesce. Cioè la disuguaglianza in sé non è necessariamente un male, nel senso che è un male magari se è quella che viene da generazioni e generazioni passate. Se io sono ricco di famiglia, continuo a essere ricco di famiglia. Se tutta la disuguaglianza è questa, allora obiettivamente è il segno di una società ferma. Se la maggiore disuguaglianza viene dal fatto che qualcuno coglie delle opportunità che altri non cogliono, maggiore disuguaglianza vuol dire anche maggiore mobilità sociale. Chiarissimo. Marco Quindi... Leonardi con noi questa sera. È ormai tempo di fare una breve pausa per sentire come vanno le cose sulle strade italiane. Poi torniamo a parlare di eguaglianza, di disuguaglianza, partendo magari da una mappa che ho sotto gli occhi, una mappa del mondo piena di colori. salari, che rappresenta proprio il rapporto tra eguaglianza e diseguaglianza. Vi anticipo il verde, che in questo caso è il colore giusto, il colore positivo, quello della bassa diseguaglianza, che di fatto è ridotto a una piccolissima zona del mondo, soprattutto paesi scandinavi, e in maniera decisamente più tenue alla vecchia Europa, agli Stati Uniti, all'Australia. 30 minuti in cronaca. Seconda parte del nostro appuntamento con 30 minuti in cronaca. Questa sera dunque parliamo di diseguaglianza, di eguaglianza, partendo dal dato che vi abbiamo letto in apertura, che riguarda dunque un'indagine dell'OCSE. Vi ho letto: l'Italia è tra i paesi industrializzati con la maggior disparità dei redditi, una disparità che è aumentata del 13% tra il 1985 e il 2008. Questa sera il nostro ospite è Marco Leonardi, professore di economia all'Università, alla Facoltà di Scienze Politiche a Milano. Allora, professor Leonardi, stavamo in qualche modo ragionando sulla diseguaglianza sostenibile, mi permetta il termine. Mi sembra un po' di parlare di colesterolo quasi questa sera. Cioè, per anni abbiamo detto no, il colesterolo è negativo, poi in realtà ci hanno spiegato che un po' di colesterolo può essere positivo. Lei ci ha detto... L'eguaglianza è il colesterolo dell'economia, insomma. Ecco, quindi se è tenuto sotto controllo è positiva, può essere positiva, è uno stimolo, eccetera. Peraltro fa parte della storia dell'umanità, ovviamente, la non diseguaglianza non ha mai fatto parte della storia, però ci sono dei momenti, dei meccanismi in cui l'eccesso di diseguaglianza, lei ha citato il caso americano, l'indebitamento delle famiglie, ecco, il sistema va in tilt. Volevo ripartire da questa mappa e da alcuni colori che mi hanno colpito, in particolare, per esempio, paesi anche vicini geograficamente, mi riferisco a Croazia e Ungheria, hanno dei tassi di eguaglianza, o meglio, degli indici di Gini molto molto differenti. In questo caso l'Ungheria risulta un paese con un tasso di eguaglianza molto più alto di quanto non sia la Croazia. Allora, sostanzialmente immagino le differenze, al di là della storia recente dei due paesi, siano nelle scelte economiche? Sì, guardi, io non mi intendo di Croazia e Ungheria, però... Questo si può dire di molti paesi, cioè si può dire per esempio del fatto che in Italia la diseguaglianza cresce e nella vicina Francia invece è ferma. Sì, infatti, ci sono tante coppie, ecco, in diminuzione, se vogliamo dire così. Ma questo, è, come le dicevo prima, che evidenzia il fatto che secondo me la cosa importante da sottolineare è questa: le diseguaglianze vanno tendono ad andare su per delle forze economiche fondamentali che non ci abbandoneranno presto, che sono la globalizzazione dei mercati, che sposta lavoro al di fuori dei paesi e penalizza quindi quei settori in cui lavoravano le persone a basso reddito, diciamo, per esempio l'industria tessile è uno degli esempi più famosi di che è stata spazzata via dall'Italia. Le tecnologie che aiutano e favoriscono i lavoratori con più reddito e con più educazione, istruzione. Il declino delle istituzioni, il declino della famiglia, diciamo così, e quindi una composizione sociale, l'aumento del lavoro autonomo, anche questo porta a maggiore disuguaglianza di suo. Siccome queste forze sono delle forze economiche il cui trend è crescente, è stato crescente negli ultimi 20 anni e sarà crescente, il punto fondamentale è che cosa fanno gli stati se vogliono ridurre la diseguaglianza, se vogliono metterla sotto controllo. Questa è la differenza. E ci sono alcune cose che servono e che hanno permesso in alcuni paesi di mantenerla sotto controllo. Per esempio, perché la Francia, allora, visto che l'abbiamo citata rispetto all'Italia? La Francia ha un salario minimo nazionale, il famoso SMIC, molto alto, ha 3/4, credo, del reddito medio. Del salario medio è il salario minimo, questo è un fattore che aiuta molto a tenere sotto controllo diseguaglianze perché ovviamente mette un pavimento, certo, forte elemento di stabilizzazione anche della capacità di acquisto, della capacità di spesa e così via. Esattamente. L'altra cosa che di cui non ho ancora parlato, ma che gli studiosi hanno affrontato con grande attenzione, è che molti di questi aumenti della diseguaglianza avvengono a livello superiore, per i molto ricchi, cioè sono i molto ricchi che hanno fatto un salto in avanti molto importante nei loro redditi. Hanno allungato in qualche modo, come si direbbe. hanno allungato il passo. Questo in molti paesi è stato il punto che ha aumentato poi le diseguaglianze in generale, soprattutto nei paesi anglosassoni, dove i manager guadagnano molto di più degli operai. Ecco, Leonardo, mi scusi, proprio a questo proposito, ancora poche settimane fa, grande dibattito sullo stipendio dell'amministratore delegato della Fiat Marchionne, gli operai, si parla di un rapporto di 500 a 1, chi addirittura di 700 a 1, c'è stato anche sulla stampa, nelle trasmissioni televisive, il tema era sostanzialmente: ma è giusto? E ancora, è sempre stato così? O, e magari non l'abbiamo, diciamo, registrato storicamente, oppure c'è davvero un elemento di novità? Non era così soltanto 10-15 anni fa, ma il doppio elemento di novità è che questa è una cosa importata dagli Stati Uniti, in realtà, perché da noi i manager non sono mai pagati con queste differenze così enormi. Adesso alcuni manager, tra cui Marchionne, sono manager davvero internazionali, davvero sul mercato internazionale, e quindi vengono pagati con di conseguenza il salario internazionale. Quindi questa è una cosa importata e non nel tempo, nel senso che 15 anni fa non esisteva da noi una differenza del genere tra manager e loro lavoratori. Ed è una differenza che è un fenomeno importato dall'estero. Questo, anche questo, bisogna stare attenti, secondo me, a come si affronta l'argomento, perché è vero che questo è sicuramente parte della storia e aumentata la disuguaglianza, perché fa parte anche di un, anche questo è un fattore mondiale. Però quanto è importante questo? Bisogna capire bene quanto è importante. Secondo me alla fine non è così importante, nel senso che questi manager sono comunque pochi rispetto alla popolazione. È un fattore di giustizia magari importante che viene tirato fuori nei casi, per esempio quando è scoppiato il caso Fiat, quello è stato una parentesi, no? Non è stato il punto fondamentale, è stata una parentesi importante per sottolineare il fatto che, come faceva Marchionne a chiedere un contratto così penalizzante, se lui stesso, però non era il punto centrale della vicenda. Ecco, queste disuguaglianze vengono tirate fuori in questi casi, però di solito non sono il punto fondamentale, soprattutto difficilmente gli singoli stati possono agire per impedire che questi grandi manager internazionali vengano pagati in questa maniera. Assolutamente, ma allora mi chiedo, il punto fondamentale è piuttosto il modo in cui si accede anche al primo lavoro, in cui si entra nel mondo del lavoro, se tutto sommato non dobbiamo preoccuparci delle poche superstar che somigliano di fatto ai grandi sportivi, ben poco, raramente ci scandalizziamo per gli stipendi stellari delle stelle del calcio. Ecco, viceversa, mi chiedo, lo squilibrio inizia all'ingresso del mondo del lavoro? Ecco, questo secondo me è una cosa sulla quale gli stati, i governi possono fare molto di più e dovrebbero fare molto di più se volessero davvero ridurre la disuguaglianza, quella che conta, insomma quella che è importante, perché ho l'impressione che gran parte dell'aumento della disuguaglianza in Italia sicuramente c'entrano almeno due cose. Una prima cosa è che l'Italia è l'unico paese d'Europa che ha un 25% della sua occupazione in lavoro autonomo o para-autonomo, cioè contratti a termine, contratti a tempo definito e co-pro. Tutte queste forme di lavoro o autonomo, partita IVA, o para-autonomo, ovviamente aumentano la disuguaglianza, perché non hanno minimi salariali, non hanno regole del mercato del lavoro né di salario che li possano mettere, che possano incardinare in un discorso di uguaglianza, ovviamente, no? E avendo una fetta così importante di lavoro autonomo, l'Italia è più esposta da questo punto di vista. La seconda cosa, è sempre interrelata a questa, è il fatto che molto più spesso i giovani di oggi entrano e rimangono a lungo su contratti precari, ormai quasi molto più del 50% delle assunzioni è a contratto a tempo determinato, ed è ovvio che i contratti a tempo determinato, non essendo soggetti agli stessi minimi e agli stessi regole dei contratti a tempo indeterminato, sono quelli più esposti all'aumento della disuguaglianza. Non mi meraviglia questo 13% in più. Per insomma, in una battuta è anche più difficile fare carriera. Certamente. Non si sale, si entra magari, ma non necessariamente si sale. Grazie Marco Leonardi, siamo in conclusione. Una battuta, questo 13%, questa china è inevitabile? È un percorso che continuerà nella logica dell'economia mondiale oppure no? Il punto fondamentale dovrebbe essere: se non facciamo niente, sicuramente aumenta. Per tornare all'Italia, che è quello che più ci interessa, secondo me, per evitare che aumenti la disuguaglianza, quella cattiva, non quella buona, quella cattiva, i governi dovrebbero stare attenti ai salari d'ingresso dei giovani e anche all'esplosione delle partite IVA e del lavoro autonomo, che magari è finto autonomo, non è autonomo vero, perché nasconde dei dipendenti che lavorano in maniera di partita IVA, ma in realtà sono dipendenti. Questo aumenta sicuramente la disuguaglianza, e questo non credo che sia un modo, non è disuguaglianza giusta quella che aumenta la mobilità, è disuguaglianza cattiva che divide le società e potenzialmente anche le rende più ingiuste, non soltanto dal punto di vista materiale, ma anche da quel punto di vista della convivenza nella società. Grazie a Marco Leonardi, lo ricordo, professore di economia al Dipartimento di Economia Politica, alla Facoltà di Scienze Politiche a Milano. Questa sera abbiamo concluso, a Peter Bescapè in regia, vi ricordo solamente radio24.it per sentire e risentire questa, tutte le trasmissioni di Radio 24. Un buon fine settimana a tutti. We'll be right back.